Allora, io continuo a tossire, abbiamo corso una cifra, quindi siamo morti. Ora siamo evidentemente in blocco sui binari, non c'è molta via di scampo, nel senso che comunque siamo circondati, perciò è abbastanza evidente che in questo momento resteremo qua. Fra 20 minuti facciamo un'assemblea fra di noi. Da un lato abbiamo l'autostrada che abbiamo scavalcato prima, però sì, ormai c'è polizia quantomeno da tre lati, quindi non c'è molto da fare. E qui dove sono io c'è appunto sono solo due blocchi, il rosso e il golden, e ora vedremo da farsi. Sicuramente restare intanto sui binari è già di per sé un'azione interessante, perché questa è quella, diciamo, la linea da cui passa appunto il carbone, quindi comunque noi stiamo bloccando il lavoro della miniera in questo momento.